c'era un fabbricato che c'è stato per tantissimi anni, una fondazione che si è estinta, dove c'erano degli artigiani, non c'era il parcheggio, era tutto occupato da questo grande casermone che occupava tutto il parcheggio che c'è adesso, quando di fronte c'erano le scuole Marconi, c'erano le Marconi e le Ferraris. Il fabbricato è diventato di proprietà del comune e per tantissimi anni non è stato asfaltato, c'era proprio buche, sassi, c'era il fabbricato. E poi venne asfaltato anche in funzione delle scuole. La Conceria Marchi, dove adesso c'è Licio Sigonio, era una conceria di Pellami che credo oggi sia sotto tutela in quanto fabbricato industriale storico, e le vasche di decantazione furono trasformate a colpi di martello pneumatico dai soci allora della società, siamo a metà degli anni 60, forse qualcosa di meno, in due campi da bocce. Le bocce che esistono alla Villa d'Oro da quando è nata, è una sezione che si è estinta alla fine del 2015 per estinzione della specie. Mentre nel dopoguerra le bocce erano, il bar e le bocce stavano come il formaggio sulla pasta.